Venghino, signori, venghino a vedere il più incredibile spettacolo. Ed ora la nostra attrazione principale. Ecco a voi. Nexus. Bene, benvenuti, benvenuti di nuovo. Qua sono le 3:10 del mattino, in quel di Daegu, in Corea. E questa è una puntata di Into the Nexus un po' speciale, perché ho avuto il piacere, come vi avevo annunciato nella precedente puntata, di fare una chiacchierata con un vecchio amico, un musicista, e di parlare dei suoi due progetti musicali. E siccome l'intervista, chiamiamola intervista, questa chiacchierata tra amici rimpatriata, è piuttosto lunga, dura circa un'oretta, io direi che non parlerò più di tanto e vi lascerò a queste quattro parole tra amici che ci siamo fatti. Io e Valentino Berto. Valentino Berto, e abbiamo parlato dei suoi progetti, per l'appunto, Le cellule dormienti e... Il silenzio sexy, ecco. Il silenzio sexy. Da non confondersi con i silenzi sexy che tanti hanno passato sui loro podcast. Mi scuso inoltre per la probabile scarsa qualità dell'audio nei primissimi 3 o 4 minuti e verso il finale, ma per qualche ragione, nonostante tutto il nuovo hardware di cui mi sono dotato, Audacity continua a rompere le scatole. Dovrò cercare di inventarmi qualcosa di diverso per registrare, diciamo, qualcosa che vada oltre i 3-4 minuti di voce. Bando alle ciance e ciancio alle bande, e quindi ecco a voi Il deserto di Piero dei Rain, a seguire l'intervista. E il maggiore era l'unico ad avere le idee chiare quando ci disse: questa mattina c'è un lavoro da sbrigare. E la pianura era così immensa che non vedevi più la fine. E il sole bruciava le nostre spalle e dipingeva le colline. Il sole bruciava i nostri 20 anni, rubati ai monti e rubati al mare, messi su un treno una mattina per la leva militare. Ma perché mi hai fatto questo, Dio ladro di un Dio? Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. Perché a morire per una bandiera non ci vai tu, ci vado io. E alla stazione della ferrovia, occupata dai militari, c'erano troie e munizioni e i corpi dei più temerari. Quando una bomba di vapore annunciò il nostro arrivo, che se eravamo 5.000, oggi non so chi è più vivo. Quel giorno eravamo 5.000 e oggi non so chi è più vivo. Così il maggiore, che era l'unico ad avere le idee chiare, aveva occhi di deserto sotto al cappello da ufficiale. Questa è una guerra e capirete che così ci cose, che come voi dall'altra parte ci attese. Quel giorno gliela dovevo dire, che avevo ancora delle speranze, volevo vivere e non morire. Che dietro alla sua alta uniforme, fresca di scuola militare, ci sono uomini senza vergogna, dietro alle nave del potere. Ci sono soldi che chiamano soldi, marciavo sul mio destino con la morte nelle vene, pensavo a lei sull'Appennino e alle sue mani infatte di neve. T'avrei amato per una vita, t'avrei dato tutto me stesso. Ora che mancano pochi momenti, oggi si muore adesso. Avrei creduto che fosse più semplice dimenticare invece di odiare. Allora, eccoci qui insieme a Valentino Berto, dei Silenzio Ciao a e tutti. Sexy. Ciao. Valentino Berto di Firenze, giusto? Esatto. E, parlaci un po' di questo tuo progetto, di questo tuo nuovo progetto di Silenzio e Sexy, così, le prime cose che ti vengono in mente da dire. Ma senti, allora, il progetto Silenzio e Sexy nasce da Marco Carnesecchi. È stata una sua idea. Marco Carnesecchi, anche chitarrista, cantautore fiorentino, anche lui, ha avuto esperienze importanti, ha suonato con Anna Ox in tournée, eccetera, eccetera, e ha creato questo progetto all'incirca un anno e mezzo fa. Anzi, se devo essere preciso, un anno e mezzo fa è il momento in cui io sono entrato a far parte di questo progetto. In realtà, già sei mesi prima, insomma, gli altri tre si stavano già lavorando insieme. Ai primi pezzi, insomma, alla stesura dei primi pezzi. Quindi io ho cominciato a gennaio dell'anno scorso, fondamentalmente, a lavorare a questo progetto e, insomma, in questo poco tempo siamo riusciti... Chiaro, insomma, siamo un gruppo emergente, quindi è difficilissimo riuscire a suonare, riuscire a trovare spazi adeguati per suonare e farsi ascoltare. Però, insomma, in un anno e mezzo all'incirca abbiamo già... ottenuto dei buoni risultati, stiamo per far uscire un singolo, uscirà a settembre, il nostro primo singolo ufficiale, con tanto di video che è in anteprima già online, insomma gira già su Facebook, su YouTube, eccetera, eccetera. Ecco, ricordiamo perché quindi, soprattutto è importante il vostro primo video. Beh, il nostro primo video è importante perché è in concorso per... sta gareggiando, anzi, diciamo, a un concorso per aprire il concerto di Ligabue a Firenze. Quindi, insomma, una cosa all'Artemio Franchi, lo stadio Artemio Franchi. Quindi una cosa abbastanza importante. Abbiamo fatto uscire questo singolo, fra l'altro, appunto, questo video, scusami Max, perché appunto il singolo ancora non è uscito in realtà. È uscita quest'anteprima proprio per partecipare a questo concorso, nella speranza di riuscire a insomma, prendere i voti giusti per aprire questo concerto. Per adesso non ci siamo, oggi è l'ultimo giorno di votazione, siamo quinti. Però insomma, accidenti, quindi non si può mai dire. Avevo sperato di poter far uscire questa intervista in tempo utile, ma a quanto pare non ce la faremo. No, assolutamente. No, ma sarebbe stato comunque molto complicato perché, come tu sai, la forma della votazione come per eleggere un vincitore è una cosa abbastanza così, insomma, chi ha più amici da spammare su Facebook vince fondamentalmente, ecco, funziona così. Cioè, noi siamo sui 5.000 amici, c'è gente con 7.000-8.000, insomma, quindi... Sì, sì, perché poi la votazione è legata per l'appunto all'account di Facebook, se non mi ricordo male. Esatto. Sì, è legato a quello, sì, sì. Cioè tu inserisci i dati del tuo Facebook, accedi al sito e voti fondamentalmente per il gruppo che preferisci. Tra l'altro puoi votare una sola volta per ogni gruppo, però puoi votarli eventualmente anche tutti, quindi cioè, teoricamente uno può votarli in tutti gli stadi, tutti i gruppi, può votare tutti, insomma. Fa una mega votata generale, se non si vuole sbilanciare. Ho capito. Dunque... allora, I Silenzi e Sexy. Io ti devo essere sincero. Lì per lì, quando ho visto il nome del gruppo sulla tua pagina di Facebook, ho detto: so già cosa stai per dire. Accidenti, ma io li ho già sentiti. Li hanno passati in altri podcast, eccetera, eccetera. Poi mi sono reso conto che non erano I Silenzi e Sexy, ma I Silence is Sexy, che sono un gruppo per l'appunto che rilascia musica podsafe su Jamendo. E, sì, sì. E che sono anche abbastanza piacevoli. Allora, incominciamo, quindi ho preso un granchio enorme lì per lì. Esatto, pensavo fosse tipo un sito pornografico, poi invece... No, comunque lo sapevo che c'era questa cosa, questo Silence is Sexy. Il nostro nome, te la dico così perlomeno, almeno questa è la versione ufficiale che Marco, appunto, Carne Secchi. Sparge, insomma, nasce dal fatto che lui lavorava, fra i vari lavori che ha fatto, lavorava in un museo, faceva il guardiano in un museo. Quindi chiaramente, diciamo, i clienti di un museo sono per lo più stranieri, quindi lui doveva continuamente richiamare al silenzio, quindi doveva dire silence please, una cosa tipo 1.000 volte al giorno. Ho capito. E una volta una tizia gli rispose silence is sexy. Cioè, e allora lui ci è rimasto male da questa cosa e ha deciso di dare il nome al gruppo. Ci è rimasto male o ha cercato di portarsela a casa? Non lo so. questo non lo so. Versioni ufficiose non ci sono. Ho capito, va bene. E, allora, quindi abbiamo così scoperto l'arcano di questo nome. Vuoi anche raccontarci un attimo che razza di musica fate? Siete rock, siete pop, siete un misto? Tendenzialmente siamo pop italiano. Insomma, questa è un po' l'etichetta che ci prendiamo, insomma, è brutto dare etichette, cioè è anche difficile, perché poi uno cerca sempre nella sua, diciamo, cioè cerca sempre di dare una sorta di originalità, magari ingenuamente, senza rendersi conto di essere uguale a mille altre persone, però uno cerca sempre di trovare il modo di proporsi in maniera originale. Beh, ci mancherebbe. Il nostro è sicuramente un progetto pop, sì. Pop rock, direi, insomma, ci sono anche delle sfumature un pochino più suonate, un pochino più tirate, però sostanzialmente siamo pop, insomma, è un progetto abbastanza commerciale italiano, diciamo. Diciamo così. Tra l'altro, appunto, se manderai i due pezzi che ti sto inviando, vedrai che uno dei due è praticamente quasi un reggae, direi, insomma, un funky reggae, una cosa del genere. Bello, no? Poppizzato, ovviamente, poppizzato. Funky reggae poppizzato, sono proprio curioso di sentirlo, perché esatto. mentre l'altro potrebbe quasi assomigliare, anch'esso estremamente poppizzato, potrebbe quasi assomigliare a un pezzo rock, insomma, un pezzo un po' più tirato, così. Bene, allora, abbiamo chiarito il nome, abbiamo chiarito approssimativamente che genere fate, esatto. O comunque qual è il vostro target, abbiamo capito che volete vendere, no? Insomma, ti ripeto, al giorno d'oggi è quasi impossibile, però l'obiettivo sarebbe quello, ecco. Allora vorrei spostarmi un attimino dal gruppo. Ah no, un'altra domanda a proposito del gruppo. Io ti avevo già parlato in qualche messaggio precedente su Facebook della musica pod safe, eccetera, eccetera. Adesso tu mi hai detto che siete sotto un'etichetta discografica attualmente e quindi ovviamente la vostra è musica coperta da diritto d'autore. Avete mai pensato di rilasciare musica in licenza Creative Commons o in qualche altro tipo di licenza più liberale, diciamo, meno restrittiva? Guarda, su questo argomento mi coglie abbastanza impreparato, nel senso non se ne è mai parlato in una discussione tra di noi, insomma non ho mai valutato l'ipotesi, anche perché il discorso di una nostra etichetta risale a pochi mesi fa. Quindi in realtà questo impegno è recente, diciamo. Tuttavia, ora appunto, diciamo, questo singolo che sta per uscire a settembre, a parte tutto, è tutelato, non c'è, a parte il video che è già online, come ti dicevo, poi si cerca di tutelarlo in modo da preservare l'uscita che sarà a settembre. Tutti gli altri pezzi sono già ascoltabilissimi su MySpace, quindi non credo siano downloadabili, questo penso di no, però sono ascoltabilissimi già lì, insomma, quindi... non ci siamo neanche posti il problema, diciamo, insomma, se uno alla fine vuole ascoltare i pezzi se ne va lì, se li ascolta, se li vuole scaricare, appunto, non sono sicuro si possa fare, temo di no in questo momento, però insomma non credo sia un problema, insomma. Cioè, avevamo fatto un promo qualche mese fa, un promo CD che cercavamo di vendere ai concerti, però anche lì, come si dice, insomma, è abbastanza complicato perché insomma, anche se chiedi 5 euro, no? Insomma, una cifra del tutto simbolica, giusto per il rimborso spese per i CD, la carta e la stampa, non è facile. Quindi, alla fine dei conti, il CD è un po' al giorno d'oggi, è un po' una forma quasi anziana di proporre la musica. Insomma, uno va a suonare, fa i concerti se riesce a trovarli. Anche questo è un altro punto di vista non indifferente. Se riesce a trovarli, va, suona, si fa sentire. Insomma, i pezzi online sono ascoltabili, insomma, in ogni caso. Comunque no, insomma, non abbiamo mai pensato, cioè non ci abbiamo proprio mai pensato a questa cosa. Ho capito. Vuoi anche raccontarci un attimo chi sono i membri del gruppo, visto che ci siamo? Esatto, come ti dicevo, allora, io sono Valentino Berto, sono il bassista corista. Marco Carnesecchi è il cantante, nonché appunto, come ti dicevo, fondatore, ideatore del progetto, cantante e chitarrista. E poi c'è Giacomo Ferrari alle tastiere, Richard Cocciarelli, l'italo-americano, alla batteria. Italo-americano nel senso che appunto è di mamma statunitense, però vive insomma qua a Firenze da sempre, insomma è nato qua. Okay, quindi qua. È un italo-americano per modo di dire. Esatto, sì, è più italiano che americano, però c'è questo Richard, questo nome che rimanda. Ho capito, bene bene. Tra parentesi stavo guardando adesso le foto sul vostro MySpace, sono anche abbastanza interessanti, diciamo, innovative. Penso spero le abbiate fatte d'estate, perché se le avete fatte d'inverno siete dei pazzi. Senti, guarda, non so quale foto ti stai riferendo, perché abbiamo fatto due set di foto. Uno vecchio, che penso sia ancora online però, e uno nuovo fatto apposta appunto per questa nuova etichetta e per far uscire questo singolo a settembre, che è quello Immersi nell'acqua. Esatto, insomma, esatto, che... stavo parlando di quello. Beh, ecco, se è quello, devo dire che non era inverno, però non era nemmeno estate, mortacci loro. Ma soprattutto dove diamine l'avete fatto, perché di acqua pulita non ce n'è tanta intorno a Firenze, non so dove siete andati. Infatti siamo a Lodi. A Lodi, ho capito. Sì, no, altro posto. Non è che siamo andati a cercare il ruscello di Lodi, perché va bene questo. Semplicemente il fotografo era di lì, insomma, questo posto è vicinissimo a casa sua, quindi abbiamo fatto lì. Tra l'altro questo è veramente un ruscelletto, cioè l'acqua era arrivata ai ginocchi perché aveva piovuto fino al giorno prima, però in realtà quello era veramente un ruscelletto che teoricamente doveva bagnare appena le caviglie, insomma, teoricamente. Teoricamente. Poi in realtà si è dimostrato un po' diverso. Ho capito, però sono foto interessanti, quanto vero, devo dire, un buon fotografo avete trovato. Sì, ce le siamo sudate, ti ripeto, perché siamo entrati tre volte in acqua con vestiti, quindi pure peggio di entrarci nudi. Insomma, è stato abbastanza pesante, ti ripeto, non faceva freddo, ma nemmeno così caldo, a dire il vero, specie all'ombra. Quindi, insomma, è stata foto belle, ti ripeto, però pagate, diciamo, pagate veramente. Ok, direi che per il gruppo è abbastanza. Adesso invece passiamo ad una cosa un po' più pulp, e cioè alla storia personale di Valentino Berto come musicista, visto che te sei, non sei partito come bassista, io me lo ricordo che te sei partito come chitarrista, insomma. Guarda, ancora prima ti posso dire, ancora prima sono partito come pianista, e questa ti manca. Questa mi manca, sì. Sono partito come pianista all'età di 6 anni. Pensa te quando risale l'inizio dell'incontro con la musica. Risale più o meno a quegli anni lì. Chiaramente controvoglia, ovviamente. Che, vai a fare il pianofortino a scuolino? No, dai, no. Alla fine vai, insomma, in qualche modo vai. E comincia questa storia. Quindi ho fatto in realtà un bel po' di anni a suonare il pianoforte. È stato lì, la considero la mia fortuna, guarda, perché alla fine sono bassista ora, il pianoforte è uno strumento che in realtà mi piace, ma non lo sento mio, quindi insomma sono contento della scelta di averlo abbandonato. Però devo anche dire che se non avessi iniziato a studiare il pianoforte, ma avessi iniziato come molti, cioè per esempio sulla chitarra, o magari alla voce, o direttamente al basso, ancora peggio probabilmente, molte io compongo, per esempio, no? Insomma, mi piace scrivere, chiaramente scrivo al pianoforte perché è lo strumento più completo. Se non avessi avuto questa possibilità e fossi, diciamo, legato esclusivamente al mio strumento, che c'entra? Con tanto studio e tanta applicazione si arriva ovunque all'incirca. Però il piano serve, insomma, ti dà una dimensione completa sia per quanto riguarda l'armonia, per quanto riguarda la melodia, insomma, è completo, c'è tutto. C'è il basso, c'è la chitarra, c'è la voce, c'è la batteria, c'è un po' tutto nel pianoforte. Quindi, avendo studiato quello, tutto il resto non ti dico che viene facile, perché magari, però insomma viene un po' più facile che se tu non avessi studiato il pianoforte, diciamo così. Quindi inizia lì, a 6 anni, all'età di 6 anni. E poi appunto il periodo che ti ricordi te, appunto quando ho iniziato a suonare la chitarra, è stata una sorta di liberazione, perché il pianoforte sono arrivato a odiarlo io dopo 7 anni che lo studiavo, perché non essendo il mio strumento preferito, ti senti un po' costretto a farlo e, ti ripeto, io lo ringrazio il pianoforte come strumento, come entità, però l'ho odiato a un certo punto della mia vita. E sono passato alla chitarra, poi ho suonato anche la batteria, vedi che alla fine me li sono fatti tutti. Ho preso la batteria mi era mancata, anche quella. La batteria assolutamente da autodidatta, non ho mai preso neanche una lezione, infatti sono scarsissimo, insomma. Però, insomma, anche quella, addirittura in un gruppo, accidenti. Davvero, sì. Poi io mi ricordo perché vabbè, adesso i periodi che mi ricordo io sono relativi alla nostra, tra virgolette, convivenza alle scuole superiori. Esatto. E poi ricordo, all'inizio eravamo anche insieme, se ti ricordi bene. Come no? Accidenti. All'inizio, il primo, se non mi ricordo, ma il primo anno, o il primo secondo, sì. Esatto, sì. Abbiamo fatto un periodo bei tempi. Mi ricordo perché c'avevi le cartine di Magic, iniziavi a tirare le cartine di lasciamo perdere, via. Esatto. Tempi andati veramente. Da qualche parte devono esserci ancora a casa mia, nascoste chissà dove. Io me le sono rivendute tutte, ci ho preso 5 euro tipo. E poi mi ricordo invece di essere venuto a vedere un concerto a Firenze con un amico dei Ultraviolet, gli Ultraviolet, esatto. Gruppo cover band degli U2, esatto. Anche lì, ragazzi, eri alla chitarra, giusto? Se non fai i tributi non suoni, cioè ti ripeto, sì, suoni ovviamente per la gloria, suoni i pezzi tuoi magari, quindi ci sta che tu suoni per la gloria, però magari suoni mezz'ora, magari suoni un quarto d'ora, magari suoni anche un'ora, però magari non c'è nessuno, quindi se vuoi fare un po', diciamo, di esperienza live un pochino più seria, palchi un pochino più belli e magari, perché no, mettere in tasca anche qualche soldino, scatta inevitabilmente il tributo, insomma, almeno in questo periodo, da pochi anni è così, però attualmente è così. Ma io ricordo già che, insomma, prima di venire qui in Corea, io abitavo nel Lodigiano, per l'appunto, anzi proprio a Lodi, e lì ci sono diversi locali che fanno musica dal vivo, e ricordo che praticamente tutte le band che passavano erano costrette per suonare a fare cover dei Metallica piuttosto che degli Iron Maiden, eccetera, eccetera, eccetera. Se no... Sì, non sono tanti anni. Prima funzionava anche il tributo generico, che ne so, una cover band rock and roll, una cover band anni 80, anni 70, disco music, che ne so. Ora funziona quasi esclusivamente soltanto il tributo, cioè nel senso la totale... Il concerto completo. Capito? Ci sono anche degli episodi, delle eccezioni che confermano la regola. Tanti gruppi che invece... Tanti, insomma, qualche gruppo che invece propone un repertorio vario e comunque riesce a lavorare. Però tendenzialmente siamo ridotti alla cover band. Questo non è una cosa denigratoria, per carità, io sono nato così, ho cominciato con la tribute band di Vasco Rossi nel lontano 2000, cos'era? La Daniele Tedeschi Band, la band dove c'era appunto Daniele Tedeschi, La Roccia, il batterista storico di Vasco, quello che ha suonato con lui fino alla, se non sbaglio, fino alla tournée del 94, rocco sotto l'assedio, ora non sono sicuro, non penso ascolterà questa cosa, non si offenderà. Sì, non credo che siano le date a creare problemi qua. No, infatti, ma poi figuriamoci. E poi ancora con la cover band di Vasco, sono andato con la Combriccola del Blasco qui in Toscana e con gli Ultraviolets, appunto un'esperienza finita, però insomma tuttora, tipo qualche due settimane fa per esempio, mi chiamano a fare qualche sostituzione, insomma è sempre un piacere, insomma alla fine non si nega che alla fine fare un concerto tributo, sì ok, può essere mortificante sotto un certo punto di vista, soprattutto quello artistico e creativo, specie. Però comunque sì, è piacevole perché la gente ti segue, conosce i pezzi, quindi se li canta, è una bella esperienza, in ogni caso. Okay. Comunque attualmente sono senza, diciamo che sto lavorando a un progetto tributo a Lenny Kravitz, questa te la do come però... prima, nel senso che se ne sta parlando, ma se ne riparlerà probabilmente più concretamente a settembre-ottobre. Sarei però, curioso insomma, di sapere chi è la voce, perché insomma Kravitz è uno che ha un bel timbro da... Beh, guarda, al giorno d'oggi, oltre al tributo, non basta fare il tributo, devi anche essere sosia vocale e sosia possibilmente estetico. Come devi essere un mostro da palco tale e quale. Deve essere uguale, cioè da lontano devi sembrare lui e come voce devi sembrare veramente lui. E io ti dico, il fatto di aver scelto il tributo a Lenny Kravitz, infatti non è che io sia un fan sfegatato, mi piace molto, ma non è che sia al punto di fare un tributo, diciamo, per lui. Semplicemente ho trovato una persona, Amada Chadli, che è un chitarrista, cantante, diciamo, io lo considero più un cantante perché... è veramente bravissimo, oltre a riuscire a imitare molto bene Lenny Kravitz, ma non ci mette neanche tanta tanta fatica in realtà, perché è molto simile come timbro, è parecchio adatto, anche esteticamente, lui è Rasta, insomma è il giovane Lenny, no? Quello dei primi tempi. Quindi da sotto questo punto di vista siamo tutelati, ecco, spero. Insomma, poi vedremo se si starà a vedere. Non ti nascondo che questa cosa nascerà, se nascerà effettivamente... solo per un discorso economico, insomma, più che altro per quello, per vedere di riuscire a campare con la musica, fondamentalmente. Ok. E anche perché c'è Lenny Kravitz, però, diciamo, che se non ci fossero i soldini... Allora, visto che tu hai tirato in ballo i soldini, io ti domando, ma per sopravvivere, che cosa fai, visto che al momento attuale mi pare di capire che la musica non ti permetta tutto questo agio, no? Senti, te lo dico proprio... come se fossimo in salotto sdraiati sul divano davanti a una birra, una birra virtuale. Esatto, se non fossi in casa con la mia mamma non camperei, ovviamente, cioè, questo purtroppo è così. Io insegno attualmente in un paio di scuole, per la prossima stagione, per il prossimo anno, scuola di musica sto parlando, spero di riuscire a portarle a tre almeno, in modo da incrementare un po' il lavoro e in più appunto mi barcameno attualmente come sostituzioni, a dire il vero, poi dall'anno prossimo spero di tirare su, come ti dicevo, questo tributo. Certo, si sta parlando di barcamenarsi, insomma purtroppo non è se usciamo dal discorso musica, ecco, diciamo sto cercando qualcosa anche in quel senso, però diciamo non fa parte della conversazione attuale che stiamo facendo, quindi non mi dilungherei. No, per il discorso musica attualmente siamo così: scuole di musica e concerti, insomma, fondamentalmente concerti tributo, ecco, perché tanto i pezzi, quando vai a fare i pezzi tuoi, se non sei a zero, sei a 100 euro, insomma, di rimborso, ecco, non è che ci si guadagna. Le buttiamo nel calderone e le usiamo per fare i manifesti, per pagarci la benzina, per andare a suonare, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non ci guadagniamo sotto questo punto di vista, anzi, finora siamo sempre un po' a rimessa, però giusto anche così, insomma, uno cerca di promuoversi. Arriverà il giorno in cui... Arriverà il giorno in cui Valentino Berto e la sua band verranno a suonare in Corea del Sud. Beh, sarebbe bello, una bella tournée asiatica, non sarebbe male, non sarebbe niente male. Senti, adesso, al di là del classico... Non fatelo, però se tu dovessi dare dei consigli a qualche giovinastro che come te in passato e anche allo stato attuale vuole incominciare a promuovere la propria musica, che cosa gli consiglieresti di fare? Allora, come prima cosa, di metterci il cuore, perché se non ci metti il cuore non esce niente. Questa è proprio certezza, si sta parlando di certezza matematica. La musica è cuore, è tutto lì, è istinto e cuore, almeno questo è il mio modestissimo punto di vista, però chiaramente stai parlando con me, quindi io ti dico cosa ne penso. Quindi questo, e poi questo, diciamo, una cosa che deriva dalla mia dal fatto che, insomma, ne ho vissute un po', non puntare sul fatto di sfondare, cioè di avere una certezza futura di riuscire a fare qualcosa nel mondo della musica, perché specie al giorno d'oggi, ma comunque è sempre stato, è veramente molto complicato, possiamo dirlo, si tratta di una botta di culo, ecco, fondamentalmente, perché molto spesso ci sono tanti gruppi, ora non voglio arrivare a dire i Silenzio e Sexy o le Cellule Dormienti, l'altro mio progetto sempre originale, ce ne sono miliardi di gruppi che suonano bene, che hanno dei pezzi interessanti e che assolutamente sono sconosciuti e nessuno sa chi siano. Cioè, prima o poi, magari, se uno insiste e non molla, ecco, questo è il consiglio che posso dare: non mollare mai, perché tanto le batoste ne arrivano in continuazione. Questo è proprio l'ambiente ideale perché nascano le batoste, e quindi arrivano in continuazione, non abbattersi e continuare. Tanto deve essere comunque interpretata come una passione, e il giorno in cui diventa un lavoro, tanto meglio. È il sogno della mia vita, della vita di molti che cercano di fare questa cosa. Però fino a prova contraria, fino a quel momento, consideriamola una passione importante, quindi mettiamoci tutto il cuore possibile e basta, insomma, ecco, fondamentalmente. Diciamo così. E senti un po', quanto conta secondo te in termini di promozione della propria musica, del proprio gruppo, anche della propria persona, la possibilità di avere accesso gratuito, per modo di dire, di avere accesso facile a internet? Beh, internet ha rivoluzionato il mondo della musica, sia in senso positivo che in senso negativo, perché come tu sai, ormai vendere un CD è diventato più difficile che porca miseria andare a vendere le enciclopedie porta a porta, praticamente, cioè, quindi... è quasi impossibile. Oggi chi vive di musica, per l'appunto Ligabue, parlavamo di Ligabue prima, lì fai un concerto e ti via, che ne so, boh, 100.000 euro se posto per 5 anni, cioè, nel senso, capito? Quindi, o anche di più. Quindi si fa presto, fai lì, perché la vendita di CD, purtroppo, anche per i grandi big, ormai è praticamente morta, insomma, o comunque è ridotta al lumicino rispetto a come era fino a 10-15 anni fa, in cui si facevano delle cifre molto, molto diverse, molto più corpose. Il lato positivo di internet è che, appunto, chi come me, come tantissimi altri, ha dei progetti emergenti, sconosciuti, quindi, da proporre, è il modo più semplice e veloce per far sì che la gente riesca, chi anche non ti conosce, possa venire ad ascoltarti. È chiaro che comunque sia, per quanto spamming tu possa fare, ci deve essere comunque cioè, la voglia, il desiderio di cliccare su quel sito e di andarti ad ascoltare almeno uno o due pezzi, altrimenti è tutto inutile, ovviamente. Però sicuramente in questo modo, anche senza, io odio spammare, quindi guarda, cioè, mi trovo in un momento in cui ho fatto questo spam per questo concorso per aprire il concerto a Liga, mi sono sentito una merda, diciamo, perché è proprio una cosa, io odio essere spammato, quindi figuriamoci spammare poi di conseguenza. Però, insomma, ecco, se uno fa una cosa moderata, senza invadere troppo la libertà personale degli altri, alla fine riesce in qualche modo a farti ascoltare da un po' di gente. E rimane il fatto che finché non hai la platea importante, che ne so, una televisione, per esempio, o una radio grossa, non so, finché non hai una platea importante in cui, che ne so, migliaia di persone riescano ad ascoltarti, il discorso non cambia, anche se c'è questa grande libertà. Però intanto c'è questo aiuto importante, puoi, diciamo, all'interno della tua cerchia ristretta o meno di amici, puoi far sentire il tuo progetto, i tuoi pezzi, le tue idee, insomma. Breve interruzione dell'intervista per ascoltare uno dei pezzi che Valentino ha scelto per noi. Subito dopo, il proseguio. Ecco a voi Ci vuole pazienza dei Silenzio e Sexy. Mischiare queste nostre vite ancora un po'. E quanto costa un robot che faccia sempre tutto lui? La mamma Rai. Quanto costa stare svegli mentre il mondo dorme steso stanco accanto a te? E quanto costa un caffè, un pomodoro ed un privé? Ci vuole pazienza, già. Ma quale pazienza, ci vogliono i soldi, che novità. Ed anche speranza, almeno un po'. Ci vuole pazienza, lo dice una pianta guardando un baobab. E poi si vedrà. Quanto costa un dentifricio che faccia splendere la vita un po' di più? E quanto costa la pay TV e andare tutti quanti al mare? Sì, perfino tu. Ci vuole pazienza, già. Ma quale pazienza, ci vuole una stronza che dica di sì? Ed anche speranza ancora un po'. Dai, esci di casa, ti offro la cena, poi si vedrà, e poi si vedrà. Ci vuole pazienza ancora un po', ci vuole pazienza, perché no? Ci vuole pazienza, già. Ma quale pazienza, ci vogliono i soldi, che novità. Ed anche speranza, almeno un po'. Ci vuole pazienza, lo dice una pianta guardando un baobab. Vuole pazienza ancora un po', ci vuole pazienza, pazienza, e poi si vedrà. Io scusa se continuo a portare questo ragionamento anche sulla certo. Pubblicazione via internet, ma mi interessa molto anche perché per l'appunto ho questo mio piccolo spazio semiradiofonico. Guarda, questo singolo uscirà a settembre, a parte tutto, come dicevo, scusa se ti ho interrotto, uscirà esclusivamente digitale, cioè in digitale, non uscirà il CD nei negozi perché appunto, come ti dicevo, non, sì, vabbè, no. non vende la Pausini, il CD è morto, Silenzio e Sexy, insomma, ecco, quindi uscirà tutto in digitale, quindi su iTunes immagino, e comunque in formato digitale in modo che possa essere scaricato a cifre irrisorie, non so sinceramente quanto possa costare, io non lo faccio, non ho mai scaricato un singolo, quindi di questa cosa non sono pratico, però penso che con 90 centesimi insomma si possa acquisire, sì, sarà, credo che i prezzi siano quelli così. Di iTunes. Però esatto. Ecco, io ti dicevo, adesso in questa puntata passerò sicuramente i due pezzi che mi hai mandato, tra parentesi ricordiamone i titoli, visto che sono Ci vuole pazienza e Nostalgia Goodbye, giusto? Esatto. Quindi sicuramente passerò questi due pezzi, ma poi passerò probabilmente anche altra musica. Ora, il concetto che io vorrei cercare di far passare a te e poi da te che sei musicista anche ad altri musicisti, è che iTunes, bello sì, però sono 90 centesimi che magari la gente non ha voglia di spendere, o che io ne sai. Per esempio. Per esempio, te, cazzo, cioè, l'ascolti a qualità infima, 56 kilobit secondo, e va su YouTube e via. O vai su YouTube e quel che vuoi. Invece ci sono tantissimi musicisti, e non solo, che hanno deciso di scegliere un mezzo di distribuzione alternativa. Ad esempio, uno dei primi è stato tale Jonathan Colton, che non so se tu conosca. No. Ecco, Jonathan Colton è come posso dire, un artista un po' geek, nel senso che è conosciuto soprattutto tra le persone che fanno gioco di ruolo oppure che sono dei videogiocatori. Perché Beh, allora io sono un grosso sei un videogiocatore, grosso quindi. videogiocatore, hai giocato a Portal per caso? No, no. Ecco. Però ho lasciato 2 anni della mia vita su World of Warcraft. Ah, però non avrei mai detto, anch'io ci ho lasciato più o meno un paio d'anni. Adesso, tra parentesi, ho ricevuto notizie che forse andrà in free to play e potrei anche ricominciare. Ah, vabbè, se vai in free to play, il Cataclysm me lo faccio, quello è ovvio. Io ho smesso da 1 anno e passa, ma se esce in free to play, è chiaro. Portal è stato un gioco abbastanza divertente, con un modello, diciamo, un gameplay innovativo in cui ci sei tu, che sei una cavia umana di esperimenti e un'intelligenza artificiale all'interno di questa struttura che, stando a sentire lei, perché ha una voce femminile, è lì per aiutarti a finire gli esperimenti. In realtà cerca di ammazzarti in tutti i modi possibili. Bello. E la canzone finale, il brano finale, è stato scritto proprio da Jonathan Colton. Ed è un artista molto particolare. La musica può piacere o non piacere, ha dei toni molto, molto country spesso. Però scrive dei testi che sono assolutamente favolosi, secondo me. E lui fu uno dei primi a rilasciare sotto licenza Creative Commons tutta la sua musica, cioè lui lascia giù le partiture, i testi, rilascia gli MP3 gratuitamente, e poi dà la possibilità di comprare i file audio non compressi, cioè compressi con codec non lossy. Certo, se tu vuoi ascoltarlo in qualità eccezionale, o comunque Esatto, qualità, e tipo io però non visibile. Mi sono ritrovato ad avere $70 che mi ballavano nelle tasche e c'era lì il pacco completo della musica di John Colton in FLAC e io ho pagato Te lo $70 e me lo sei sono preso. scaricato tutto. Idem si può dire per un sacco di altri artisti che distribuiscono musica, per esempio su Jamendo, ma Jamendo non è l'unico sito, ce ne sono altri, che distribuiscono gratuitamente la versione compressa della propria musica. Poi gli utenti che la scaricano o che non la scaricano, che semplicemente l'ascoltano online in streaming, sono liberi comunque di fare delle donazioni al gruppo, oppure spesso ci sono delle offerte, tipo scarica in versione più qualità pagando 5 euro, Certo. oppure Beh, scarica gli sicuramente, guarda. etle. Scusami, no, Prego, prosegui, prego. prosegui, scusami. No, dicevo, scarica tracce inedite, cose del genere. No, stavo dicendo, io non sono un grosso esperto in questo settore, nonostante passi molto del mio tempo su internet e comunque al computer, non mi sono mai, diciamo, interessato a questa cosa, anche se, soprattutto spiegata in questo modo, è assolutamente un'idea vincente, nel senso, come si dicevo prima, a oggi CD è un'entità morta, quindi la promozione deve essere fatta in questo modo. Nel nostro caso è un po' diverso, ti ripeto, perché dal momento in cui subentra un'etichetta o comunque un personaggio o un'entità che diciamo, prende in mano il progetto ed investe su questo progetto, a quel punto inevitabilmente ti rifai a lui. Quindi, È naturale. chiaramente questa etichetta, qualunque essa sia, cerca in ogni caso di vendere il suo progetto. No? Insomma, chiaro, ti do magari un abbocchetto, magari ti faccio sentire 20 secondi, dopodiché. Se te lo vuoi sentire tutto, ti piace, te lo vai a comprare. Io personalmente, e te lo dico anche qui come se fossimo seduti su un divano davanti a una birra, tranquillamente, sono assolutamente un sostenitore del promuovere la musica a gratis, come si direbbe, nel senso che non ha senso dal momento che non sei nessuno, perché non risulti, no? Se vai su internet e scrivi Silenzio e Sexy, ok, o Le Cellule Dormienti, ok, ti appare il MySpace, il Facebook, qualche video, un paio di recensioni, un paio di cose, dopodiché finisce lì. Quindi non ci sei granché nel mondo della musica, sei soltanto all'inizio, no? Quindi conviene qualsiasi forma di promozione, possa essere un live, che possa essere un sito internet, che possa essere un podcast, qualsiasi forma di comunicazione tu puoi utilizzare per far sentire i tuoi pezzi agli altri, facendoglieli sentire gratis, ovviamente, in modo che non ci sia lo scalino, però devi pagare, cioè, se lo vuoi sentire. È chiaro che così è meglio. Poi magari il giorno in cui sei Ligabue, allora a quel punto puoi cambiare anche, il target, no? Nel senso, puoi lasciare appunto i 20 secondi in anteprima, e chiaramente i pezzi disponibili sul sito, sempre magari 20 secondi, 30 secondi, dopodiché ti vai a comprare il CD. Però anche qui, chissà, vatte la pesca fra 5 anni come siamo messi, magari esisteranno dei CD virtuali che te li scarichi, cioè, non lo so, delle entità assolute. Ma io ho l'impressione che il supporto fisico sia più o meno morto oramai, come mezzo di distribuzione, cioè, indipendentemente. Capito, bisogna vedere come funzionerà tra qualche anno, cosa si inventeranno, perché ora come ora qualcosa bisognerà pur fare, perché in questo modo anche gli artisti grossi sono in difficoltà, capisci? Fai fatica veramente, magari, ecco, l'artista grosso no, cioè il Ligabue della situazione no, ma il musicista che suona con lui, che magari fa il turnista, quindi viene pagato per suonare i pezzi suoi, per accompagnarlo durante i concerti, risente di questa cosa, certo, perché ovviamente l'artista guadagna meno e quindi guadagni meno anche te, insomma. Certo, certo. Fine. Quindi si sta andando verso una spirale negativa che sta un po' uccidendo il mondo della musica, quindi si spera che a breve venga fatto qualcosa, cioè, o viene veramente sdoganato, cioè che la musica è gratis e si può ascoltare su internet, si può scaricare tranquillamente, e a quel punto, se te vuoi, il guadagno ce lo fai dai concerti, allora però magari i concerti costeranno di più, non lo so, qualcosa bisognerà pur fare, insomma, ecco, perché così siamo messi un po' male. Ok, e allora in questa, adesso una domanda da persona che, bene o male, non si dovrebbe dire, se la CIA ci sente, mi vengono in Corea e mi arrestano, però voglio dire, anche io i miei bei ripazzi di CD me li sono fatti qua e là. Molta musica l'ho comprata, però voglio dire, il problema è che tante volte i soldi non ce li hai, magari quando sei un adolescente, oppure quando sei un grosso fruitore di musica, magari non hai tutti i soldi per sentire tutta la musica che vorresti, no? Vorresti, beh. Però voglio dire, il mio punto di vista è che le copie non legali si sono sempre fatte, no? Si copiavano le cassette, c'era chi si faceva le copie con i DAT addirittura, se voleva, c'aveva l'amico nel gruppo o cosa. E ricordo, dal mio punto di vista, il periodo mitico delle cassette, le sbobinate, quando si incastravano, si sono inventati i CD, poi hanno iniziato a copiare anche i CD, e adesso si sono inventati il DRM. Esatto, pian pianino. Però dal mio punto di vista, cioè, il fenomeno è sempre lo stesso. L'unica cosa che è cambiata è che, grazie alla digitalizzazione anche della musica e della comunicazione, è cambiato semplicemente il fatto che lo scambio avviene più velocemente. Però non è che il fenomeno sia non sia mai esistito o sia in quantità maggiore rispetto a prima. Però considera, mettiamo l'esempio, no? Torniamo indietro di 20 anni, cioè, o di 15, insomma, una cosa del genere. Quando ancora il CD, insomma, non era ufficiale, non era disponibile per tutti, ecco, diciamo. Cioè, era una cosa che ancora magari c'era la musica classica sui CD, mi ricordo, ancora la musica leggera non si vendeva. Se io voglio ascoltarmi e voglio avere la cassetta degli Iron Maiden, non ho i soldi per comprarla, devo trovare un amico che ha questa cassetta per copiarla. Certo. Se non lo trovo, fanculo, aspetto qualche giorno e me la compro. Vedi? Adesso non ci penso nemmeno a farmi venire in mente. Io sono anni che non, te lo dico sinceramente, sono anni che non copio un CD, ma proprio anni, anni. Cioè, nel senso che ormai se mi voglio ascoltare una canzone, davvero vado su YouTube, cioè, nel senso, mi guardo anche il video. Cioè, tanto io la musica l'ascolto in macchina, a quel punto ho già il CD, ho barcate di CD fino a che appunto li compravo, comunque sia, mi facevo passare dagli amici. Cioè, barcate di CD, li ascolti in macchina e ciao, poi a casa l'unico modo per ascoltarlo, almeno per quanto mi riguarda, è internet, comunque è il computer, ascolto da lì, dalle casse del computer. Quindi automaticamente vado su YouTube e mi sparo anche il video, cioè in un nanosecondo, se non mi ricordo il titolo, scrivo l'artista, viene fuori tutti i titoli, me lo cerco di trovarlo, è troppo più semplice, capisci? Mentre prima c'era, è più semplice rubarla la musica, capisci? Questo ti voglio dire, cioè, a quel punto diventa che la dai gratis, che cosa la vendi a fare? Tanto si può avere comunque gratis, quindi non ha senso venderla. E per questo ti dico che al giorno d'oggi o il CD te lo vendono a 10 euro, cioè il CD appena uscito di Madonna lo paghi 10 euro, ok, allora te li do questi 10 euro, me lo figlio, preferisco avere anche il supportino, ecco, originale. Okay, con il libretto e tutto, voglio dire, c'è anche il suo gusto. No? Ah, direi c'è il suo gusto, ti ripeto, io ne ho centinaia di CD originali, fino a che li compravo, io andavo una volta a settimana, nel periodo del liceo, quello appunto che abbiamo convissuto, io più o meno una volta a settimana andavo alla galleria del disco, te la ricordi, quella sotto la stazione. E scattava uno o due CD, cioè nel senso era un piacere, ma compravo roba dei Genesis, roba vecchia, che magari con 10 euro, 12 euro me la. Scusami, oh, bravo! 12.000 lire o 15.000 lire me la cavavo. Ecco, vedi che però stai tirando fuori un argomento molto importante, secondo me, che è quello del prezzo. Cioè, adesso. Ma si ritorna sempre lì, Max, i soldi sono quelli, cioè nessuno, cioè purtroppo sono una brutta cosa, ma è tutto lì. Il problema è quello. Adesso la mia domanda è. Visto che stai entrando nel mondo della musica professionale e che stai entrando anche nel mondo della musica distribuita da un'etichetta, ok? Per quanto io adesso non so che etichetta sia, non so se lo vuoi dire, se sia un'etichetta indipendente, un'etichetta di quelle grosse. Etichetta indipendente nel senso che loro fondamentalmente, la Gen4Live fondamentalmente, la Gen4Live è un'agenzia enorme che lavora, diciamo, principalmente nel centro-nord Italia, e che si occupa tendenzialmente, diciamo, in maniera particolare di cover band, per l'appunto. Quindi okay. Lavora nell'ambito di cover band, fa suonare i gruppi nei locali più importanti che ci sono al nord, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è un ramo manageriale, JM Production si chiama, quindi Gen4Live e JM Production, che è la stessa cosa, cioè gli stessi proprietari, che si occupa, diciamo, in maniera indipendente, ovviamente, di promuovere e di produrre della musica. Quindi di fare sia produzione, ma soprattutto management, ecco, diciamo. Ho capito. Quindi, a questo punto la mia domanda era quanto conta secondo te, cioè quanto va ad impattare su quella che è la vita del musicista e anche i guadagni del musicista la quota che viene sottratta dalle case di distribuzione, di promozione, eccetera, eccetera. Perché la domanda è, di quei 21 euro, quel che è, adesso non so nemmeno quanto costi un CD in Italia, un CD appena uscito. Non lo so neanche io, Max. Quanto va all'artista e quanto di tutta quella... di quella cifra va alle case di distribuzione? È giusto che sia così? Andrebbe cambiato il modello? Insomma, secondo me alla fine è molto importante che si chiarisca che sarebbe bene che chi ci guadagnasse veramente da tutto questo fossero gli artisti e non le case di produzione. Cioè, le case di produzione, ovvio, devono sopravvivere anche loro, però che loro ci facciano i soldi e gli artisti rimangano con un pugno di mosche. Guarda, ti dico, la suddivisione esatta dei proventi che vengono dai CD non la conosco, cioè non lo so esattamente. Io so soltanto che il musicista prende veramente poco, si parla veramente di pochi euro, cioè nel senso, se tipo lo vendi a 20 euro, penso forse i musicisti riescano a... Il gruppo, quindi l'entità gruppo forse riesce a prendere 2-3 euro, cioè una cosa del genere. Forse, ecco, quindi... forse anche meno, io non lo so sinceramente. Purtroppo questo sistema che c'è, come molte cose... non soltanto nell'ambito musicale, sono rimaste agli anni passati, per esempio gli stipendi, certo, per certo. Fare una battuta, sì, diciamo. Sì, sono rimasti a 10 anni fa. 10 anni fa io con 2 milioni magari campavo decorosamente, oggi ho 1000 euro non so cosa fare, cioè sono disperato. Quindi sono cambiati i tempi, di conseguenza tante cose si dovrebbero adeguare ai nuovi tempi. Una delle meno importanti sicuramente, però riguarda l'argomento che stiamo parlando è questa, cioè per esempio cerchiamo di trovare un modo di tornare a vendere la musica in maniera onesta e sconfiggiamo alla fine. Devono convivere queste due entità, capisci? La possibilità di ascoltare, giustamente come dici, la possibilità di ascoltare musica anche magari a qualità inferiore, perché è ovvio, altrimenti per caricare una pagina ci staresti delle ore, cioè se tu volessi ascoltare un disco, capito? Quindi è giusto, ti ascolti la tua musica, dopodiché se la vuoi comprare, ok, con 10 euro davvero te la puoi comprare, questi 10 euro ci rientrano 2 euro per la band, 5 euro per l'etichetta, 2 euro perché la distribuisce, cioè, c'entra di tutto, cioè, nel senso, l'importante è che non ci mangi chi non c'entra nulla, cioè, su questa cosa. Quindi io te la butto lì, cioè tu, voi pensate, cioè adesso siete sotto un'etichetta ufficiale, tra virgolette tradizionale, e avete questa limitazione. Ma se per caso avrai un progetto futuro che vorrai così distribuire un po' più liberamente, io per esempio mi è capitato spesso di pezzi che ho scaricato da Jamendo, che passavo durante il podcast, per qualche puntata l'ho fatto, adesso spero di ricominciare a farlo che ho un pochettino più di agio, e selezionavo di tutta la musica quella che mi sembrava più la più promettente, quella che mi era piaciuta di più, e a quell'artista per quel pezzo di musica mandavo 5 euro, per dire, di cui 99 centesimi vanno al sito per il supporto di tutto, per l'hardware, la banda, eccetera eccetera, e tutto il resto va all'artista. Quindi voglio dire, su 5 euro 4 vanno all'artista. Beh, è una bella cosa. Però bisogna vedere appunto quante... Capisci, se tutto fosse orientato verso questa tipologia di commercializzazione, lo farebbero tutti, cioè saresti portato a farlo, capisci? Cioè, magari... Sai anche cosa c'è secondo me? Che uno è poco conosciuta, cioè nel senso che... quello che questi siti tendono a promuovere e a pubblicizzare è il fatto che tu puoi scaricare la musica gratuitamente. Poi quando vai a scaricare la musica c'è anche il link, vuoi supportare questo artista, dona, eccetera. Però l'idea che passa, e quello secondo me è sbagliato, è l'idea principale, è che tu la musica ce l'hai gratis. L'idea principale secondo me invece dovrebbe essere un complesso di idee, cioè la musica qui è gratis, ma è importante che voi supportiate gli artisti che la fanno. E poi l'altra cosa è che secondo me questo modello funziona veramente se la musica è di qualità. Ah beh, certo, questo è chiaro. Allora la gente incomincia a parlarne, allora dici all'amico, gli mandi il link via email o via Messenger, via Skype, quello che è, ed ecco che incomincia a girare. Sì, è verissimo, è verissimo. Io spero che appunto a breve la cosa possa, il meccanismo possa evolversi in questo senso, perché io sono un sostenitore, cioè, ti ripeto, al giorno d'oggi non avrebbe senso sostenere i CD... O comunque, ti ripeto, ha un costo irrisorio, diciamo, ha un costo che a quel punto, se devo scaricarmi un CD che si sente malissimo, gratis, però si sente malissimo, senza copertina, senza testi né nulla, quindi ci spendo comunque magari un paio d'euro per farmi il CD, per stamparmi la copertina, no? Come fanno alcuni, a quel punto mi compro il CD, se lo pago 10 euro, 8 euro, che mi frega, a quel punto lo prendo, almeno ho tutto un supporto particolare, cioè appunto il libretto, le informazioni, che magari mi piace, era una delle cose più divertenti, no? Mentre andare a casa, scartavi il CD, lo infilavi nello stereo, dove mentre ascoltavi le prime note, ti avevi visto il libretto, iniziavi a guardare le foto, a leggere un po' di curiosità, il chitarrista usa Gibson, il chitarrista usa questo, capito? Non lo so, una cosa del genere fa sempre piacere, no? A oggi è tutto, come dire, un calderone, cioè ti scarichi la roba, magari è tagliata a metà, quindi magari senti anche mezzo, oppure magari è tagliato il finale, non si capisce, cioè, tagliato l'inizio, qualità pessima, dice, magari delle cose, alcune cose. Un pezzo che magari... lasciamo perdere il discorso qualitativo, bello, brutto, insomma, che si sente bene, un pezzo splendido da un punto di vista qualitativo di proprio di qualità di timbrica, di suono proprio, se lo trasformi, cioè se lo comprimi male, cioè poi fa schifo, fa schifo anche se fosse bello, capisci? Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, certo. Anche se fosse veramente bello, dici, anche da un punto di vista di pezzo in sé per sé, quindi cavolo, mi piace questo pezzo, lo vai a ascoltare in qualità pessima, ci sta. ci sta che tu non riesca a cogliere, cioè non è mica facile, ci sono degli addetti ai lavori che appunto capiscono se una canzone è bella anche se è fatta a chitarra e voce, ma magari uno è capitato a sentire tutto un arrangiamento, super suoni, cioè vado a sentire questo troiaio, cioè registrato male, che si sente pure peggio, cioè alla fine magari non mi piace nemmeno la canzone, anche se magari mi sarebbe piaciuta l'avessi ascoltato in super qualità, ecco, questo volevo dire. Bene, allora io direi che ci siamo detti più o meno tutto per questa nostra chiacchierata. Oh yeah! A meno che tu non abbia altro da aggiungere, nel qual caso ti lascio il microfono. No, no, assolutamente, anzi, come ti dicevo, come ti ho infilato, diciamo, nel corso della trasmissione, stavo dicendo. Vabbè, insomma, è una trasmissione, comunque, sì. È comunque una forma di trasmissione. Appunto, ho anche un altro progetto che non considero secondario rispetto ai Silenzi e Sexy. Le cellule dormienti, giusto. Esatto, nonostante non abbiano un'etichetta, quindi siano, anzi, in questo momento non abbiano nemmeno il batterista, perché il nostro batterista è attualmente in tournée con Alessandra Amoroso e quindi non ha, diciamo, confermato la sua disponibilità a continuare questo progetto. Quindi stiamo anche cercando un nuovo batterista. Però allo stesso tempo questo progetto è per me comunque molto importante, è più indietro, ti ripeto, se vogliamo dirlo così, però è comunque molto importante. Anche questo trovabilissimo su internet, ascoltabilissimo sul MySpace, ovviamente delle cellule dormienti, Facebook, eccetera, eccetera. Insomma, giusto per fare par condicio, ecco, fra le due situazioni che promuovo. Benissimo. Valentino, io ti ringrazio infinitamente di aver dedicato questa oretta a questa chiacchierata. Spero anche che per quello che i miei due ascoltatori fanno, però insomma che riescano a portare un pochettino più di interesse verso questi tuoi due progetti. Mi ha fatto anche piacere perché erano anni che non ci sentivamo, penso. L'ultima volta è stato per l'appunto alla Flog, quella volta ci siamo visti, sei venuto a vedere il concerto degli Ultraviolet. Quindi sono tre anni. Sì, è un bel po'. Va bene, di nuovo grazie e dai, questo conclude la nostra intervista. Ciao Max, ciao a tutti, sono due ascoltatori, ciao a voi due, se ce ne sono mille, ciao a tutti. Ciao Max, grazie, è stato un piacere. Ciao. A conclusione di questa lunga chiacchierata tra amici, nonché di questa puntata di Into the Nexus, come è giusto che sia, ecco a voi il secondo pezzo dei Silenzio e Sexy. Nostalgia Goodbye. Tu consideri di più i forti o i deboli e pensaci, perché da me tu non ti stacchi mai, sia forte o debole, e pensarci. Dici, dici, ma non lo fai, dici, dici che sparisci, dici, dici.